later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli non suona mai la sveglia, Cappa e Drago sono ancora lì che parlano. È mezzanotte, Drago, io non capisco mai se è presto o tardi. Non si può dire niente sulla mezzanotte. Scusa, ad esempio, è presto o tardi per andare a dormire? Che ne so, dipende, no? Ma cosa? Dipende sempre per te? Dipende. Anche se non capisco niente di matematica, come ben sai, so che per risolvere un problema bisogna prima avere delle informazioni, sia in matematica, sia in memetica, sia nella vita di tutti i giorni, quindi... Vabbè, e allora, quali sono le informazioni che ti servono per decidere se mezzanotte è presto o tardi per andare a dormire? Su, Drago, avanti. Ad esempio, se sei stanco o no, se sei stanco o no, se il giorno dopo ti alzi presto o no, se quel giorno ti sei alzato presto o no, se hai l'abitudine di andare a letto presto o no, presto o tardi, se c'è una ragazza o no che ti aspetta tutta disponibile a casa sua, o se invece sei un tipo solitario che prima dorme e prima dimentica le brutture della vita. Come vedi, di variabili ce ne sono tante, ne posso ancora inventare se vuoi. Comunque per me andare a letto mezzanotte è come andare a letto coi polli. Era una battuta? No, perché? Scusa, voglio dire, le 3 di notte è tardi, le 6 del mattino invece è presto. Però se dici le 3 del mattino è tardi o presto? E se dici le 6 di notte? No, le 6 di notte non si dice. E le 5 di notte? Nemmeno, ci si ferma alle 3 di notte, poi si arriva subito alle 4 del mattino. Quindi è tra le 3 e le 4 che la notte diventa mattina. Forse sì, anche se si può anche dire le 3 del mattino, anche le 2 del mattino. Forse non l'una del mattino, questo non lo so. Quindi in teoria il mattino comincia alle 2. Forse l'una e mezza. Cosa dire? L'una e mezza del mattino, non lo so mai sentito, Eh no, ma comunque mezzanotte non è mai né mezzanotte del mattino né mezzanotte della notte. Mezzanotte è mezzanotte. Di mezzanotte ce n'è una sola in tutti gli Stati Uniti d'America. Ce n'è una sola in tutti gli Stati Uniti d'America. Io non saprei che dire se adesso fosse giorno. E non saprei partire perché non c'è ritorno. E non saprei chi sono se si vedesse il viso. Tu penseresti male vedendo il mio sorriso. La notte ci nasconde e meno male. C'è le mancanze dentro queste stanze. La notte ci nasconde e ci fa male. Prendere le distanze tra noi due. La fabbrica di polli. Qui la stazione da Radio Orkmanistan, l'unica radio libera e liberata da tutto il Medio Oriente. Cronaca interna. Generale Sparahare, in visita ufficiale del pozzo di petrolio italiano, ha rapito tutto il personale e chiesto riscatto al governo italiano che è investimento sicuro. Quando tu chiedi, quello, cioè il governo italiano, dà. È scritto su tutti i giornali arabi. Rapete un italiano che rende. Con tabella di riassunto che mostra fondatezza di notizia. Rapire un italiano rende a una famiglia arcmena quanto il lavoro di due uomini per 2 anni sotto sfruttatori sionisti. a tutti i cittadini di grande Arkmanistan unito. Rapete un italiano, rapetelo. E poi chiedo il riscatto. I tecnici petroliferi che rapiscono ogni tanto non smuovono gli animi come i giornalisti che rapiscono sempre ogni tanto. Come mai? È perché quelli che rapiscono i tecnici non sono terroristi internazionali. Sono ribelli locali, capito? Che hanno fame e usano i rapimenti per ottenere cose semplici, mica la liberazione degli assassini. Invece i giornalisti? I giornalisti stanno nelle zone di guerra e sono carne facile. Per un'intervista a un leader barbuto imboscato in mezzo alle montagne, i giornalisti venderebbero l'anima a Mefistofele, Drago. Si fanno attirare nei tranelli come niente, capito? Hanno conoscenze nel mondo politico, possono contare su una copertura mediatica pazzesca. Insomma, se riesci a beccare un giornalista e a mantenerlo vivo per qualche settimana, sei a posto. Sì, vabbè, ma poveri giornalisti. Poveri giornalisti, si sentono Hemingway. Ma sei impazzito, Kappa, Vuoi morire fulminato da Dio onnipotente in persona? Ma perché? Proteggi i giornalisti? I giornalisti sì, autisti e interpreti meno. Cosa c'è? È mezzanotte. Mezzanotte, ora delle streghe. Ma lascia perdere la mezzanotte, Drago. È diventato un argomento innanzitutto noioso per noi che viviamo in un'eterna mezzanotte. Mezzanotte. E poi è un argomento tabù da quando c'è Marzullo, Drago, dai. Cioè, da sempre. Eh sì, perché lui comincia i suoi programmi a mezzanotte e dunque ogni volta dice... Proprio quando un giorno, vista l'ora, è appena finito... E un nuovo giorno è appena iniziato? Insomma, e allora dopo 20 anni di tormentone Marzullo, dopo che un giorno, vista l'ora, eccetera, eccetera, direi che sviscerare il concetto del confine tra due giorni non si può più fare. Eh no, mezzanotte, l'ora di Marzullo, allora, no? Si è preso il copyright della mezzanotte. È un'impresa, Drago, che non era mai riuscita a nessuno prima, tranne forse a Cenerentola, però lui... Piano piano, senza strafare, Marzullo, un passettino dietro l'altro, una notte dopo l'altra ce l'ha fatta. La mezzanotte è sua e nessuno lo mette più in discussione. Nemmeno Cenerentola. No. Pensa un po', se uno dei cervelli nascosti qui dietro questa fabbrica di polli fosse proprio lui. Ma chi? Marzullo? Presto! Tenente Drago! Dobbiamo trovare immediatamente Gigi Marzullo! È vestito di blu! Anche i capelli sono blu! Porta gli occhiali e parla da solo! Parla da solo? Certo, Tenente Drago! Quando l'ospite risponde a una sua domanda e lascia aperto l'argomento, Marzullo passa alla domanda successiva, come se fosse un'intervista via email o un'intervista di Enzo Biagi. Quindi è evidente che lui fa le domande, ma non gliene frega niente delle risposte. O forse non le capisce. Presto, Tenente Drago! Cosa fa l'impalato? Ma comandante Kappa, dove lo trovo Gigi Marzullo nella fabbrica di polli? Si guarda intorno! Ma io non lo vedo! Guardi meglio! Non lo vedo! Non tarderà a farsi vivo! Lui, Marzullo, è il padrone della mezzanotte! E questa è la landa dell'eterna mezzanotte! Tenente Drago! Noi lo troveremo! E lo defenestreremo! Lo elimineremo dal palinsesto come se fossimo a Sofia in visita di Stato! La mezzanotte tornerà a essere patrimonio dell'umanità, Tenente Drago! E non più soltanto di Gigi Marzullo! E Cenerentola! Che cosa succederà adesso? Riusciranno il comandante Kappa e il tenente Drago a intercettare ed eliminare Gigi Marzullo? E se sì, si scatenerà una lotta intestina alla RAI per rimpiazzarlo nell'ambitissimo palinsesto notturno? Lo scoprirete soltanto sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo, occasionalmente poco interessante, allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. Ma il viaggiatore notturno esplora di più con il corpo o con la mente? Notturno, ma qui è sempre mezzanotte. Ma poi che domande sono? Ma tu sei Marzullo?